Temo per la sorte dei lavoratori, temo perché i lavoratori fino a questo momento, cioè da oggi, hanno perso lo stipendio, quindi temo per loro, per le loro famiglie e per la città di Taranto e di conseguenza temo per eventuali, voglio dire, blocchi nella città che porteranno ulteriore disagio anche agli altri cittadini, quindi oggi tutti i tarantini sono vicini ai lavoratori dell'isola. Io non giudico come è giusto che sia l'azione della magistratura, anche perché bisogna tenere presente che cosa ha fatto scattare questo comportamento della magistratura. Certamente la non risposta da parte della famiglia Riva, nel senso che c'erano delle prescrizioni, queste prescrizioni non sono state rispettate e la magistratura impone il rispetto. Il problema però è immediato, i lavoratori non possono perdere lo stipendio, la riunione che avremo giovedì, e questo ci conforta, la riunione che avremo col governo, i sindacati a livello nazionale, io chiedo che la presenza anche dell'INPS, perché si possa immediatamente garantire a fine mese la cassa Co integrazione, ecco, come una. come lei vuole un anticipo di cassa integrazione per non lasciare neanche il primo mese senza stipendio a nessuno? Sì, perché già da mesi i lavoratori sono in. Guardi, abbiamo avuto 4 incidenti in questi mesi, perché i lavoratori sono fortemente stressati per l'incertezza del presente e del loro futuro.